cazzo da fare, tutto il giorno a giudicare. Non sai fare niente, sei solo un prepotente. Hai mai provato il gusto a star da solo almeno un'ora con te? Suonare un blues, ti confesso che ti libera la mente, ti fa bene veramente. Non sai fare niente, tutto il giorno a giudicare la gente che non vuole aver da far con te. Più si ci trova bene con se stessi, non è normale per te. Lo chiami asociale chi non vuole star con te. Non vali niente, hai mai pensato che sei tu che non vai, che sei un prepotente e poco intelligente, e quando vedi che la gente non vuole stare con te è asociale, chi non sta neanche un'ora con sé, con sé.